Questa notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Musicalmente preferisco Jovanotti. Mio figlio è andato al concerto di Fedez, però purtroppo è un problema che ho in famiglia. E come apertura mentale mi confronto volentieri con Jovanotti, che la pensa diversamente da me. Fedez mi sembra un talebano. Insomma, Matteo Salvini ha problemi in famiglia perché il figlio dice segue Fedez. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ognuno ha i suoi problemi. Fedez, sapete, è un notissimo rapper tra i più giovani, magari non tutti lo conosceranno, quello che va per la maggiore in questo momento. E diciamo che hanno Salvini e Fedez delle idee un pochino diverse, non tanto sui gusti musicali quanto per esempio sugli immigrati, sui rom. Ecco perché c'è stato questo scontro con Fedez da parte di Salvini. Parleremo anche brevemente nella prima parte, in cui vi riassumo come sempre la giornata, di questo sodalizio ormai ratificato tra Berlusconi e Salvini, quindi tra Forza Italia e la Lega. Ecco, mi piacerebbe sapere cosa ne pensate, perché era nell'aria da tempo, poi Salvini aveva un po' raffreddato questi entusiasmi e poi alla fine tra ieri e oggi, insomma, l'accordo è fatto per le regionali, di modo che Berlusconi sosterrà Zaia nel Veneto, la Lega sosterrà in Liguria invece Toti, consigliere politico di Forza Italia. Che ne pensate di questo sodalizio? C'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per voi in qualsiasi momento, in qualsiasi giorno dell'anno, e poi c'è anche il numero per i messaggi, potete mandare sms al 349-238-6666 per dire cosa ne pensate, insomma, di questo nuovo matrimonio tra la Lega e Forza Italia. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Ma poi parleremo anche, usciremo un po' dai nostri confini, perché dovremo parlare dell'ennesima strage da parte di integralisti islamici, questa volta in Kenya, avvenuto in un college universitario di giovani studenti. E poi in Iran, con questo accordo che sembrerebbe storico, sapete, sono negoziati che vanno avanti da anni e anni per fare in modo che l'Iran utilizzi il suo programma nucleare non per scopi pacifici e non per creare la bomba atomica. Poi ci occuperemo anche del rimpasto, mini rimpasto che Renzi ha fatto. Intanto Del Rio ha giurato come nuovo ministro delle infrastrutture dopo le dimissioni di Lupi, e ci occuperemo anche di un problema molto particolare, delicato, che riguarda sempre più famiglie, ma probabilmente perché se ne ha più consapevolezza, che l'autismo. Oggi è la giornata mondiale, infatti, per la consapevolezza sull'autismo. Quindi man mano vi snocciolo tutti questi argomenti con gli ospiti che ci saranno. Vediamo un po' prima complessivamente la giornata. Iran raggiunta un'intesa a Losanna, in Svizzera, sul programma nucleare iraniano. Terrorismo islamico, strage jihadista al college universitario in Kenya, 147 i morti per ora, salvati 500 studenti cristiani degli 815 presi in ostaggio. Rimpasto di governo, Del Rio giura al Quirinale come ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dice le opere non grandi o piccole ma utili devono essere. L'aereo precipitato, trovata la seconda scatola nera, e si apprende che Lubitz cercò sul web notizie su suicidi e sulla porta della cabina. Medicina, oggi è la giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo. Cinema, è morto all'età di 106 anni il regista portoghese Manuel de Oliveira. E poi lo sport, vela, Patrizio Bertelli dice basta, Luna Rossa fuori dalla Coppa America. Concentriamoci partendo sul programma nucleare iraniano. Durante i negoziati a Losanna in Svizzera è stata raggiunta un'intesa, sono stati fatti progressi per continuare a negoziare sino al 30 giugno. Queste sono le parole scritte nella dichiarazione congiunta di Losanna, secondo quanto riporta la stampa americana. La scadenza era già stata fissata precedentemente per la formalizzazione dell'intesa dettagliata sul nucleare iraniano. Il presidente iraniano Hassan Rouhani ha confermato dal suo account di Twitter, molto tecnologico anche lui, che sono state trovate soluzioni sui punti chiave del negoziato sul nucleare, ha annunciato che comincia immediatamente la stesura della bozza da concludere con l'accordo tecnico dettagliato, appunto, abbiamo detto, per il 30 giugno. Poi approfondiremo con un inviato speciale questo argomento. E restando sulle notizie estere, vi dicevo questo attacco di un comando armato al campus universitario di Garissa nel nord-est del Kenya, 150 chilometri dalla frontiera con la Somalia. Il bilancio provvisorio è di almeno di quasi 150 morti, 4 degli aggressori sarebbero stati uccisi, il campus conta 815 studenti e circa 60 insegnanti e per il momento, secondo le ultime notizie, 500 studenti sono stati portati in salvo, del resto si sa ancora poco. L'attacco è stato rivendicato dalle milizie di Sabah, la galassia dei jihadisti, dei terroristi islamici è veramente variegata, e anche su questo poi consulteremo più tardi un esperto per capirne di più. E poi riparliamo dello schianto del volo Germanwings, perché è stata ritrovata la seconda scatola nera, mentre a Berlino è stata istituita dal Ministero dei Trasporti una task force per la sicurezza dei voli, e sul copilota suicida e omicida e le sue condizioni di salute intanto arrivano nuovi inquietanti dettagli. La procura di Düsseldorf, che indaga sulla vita di Andreas Lubitz, svela che il 27enne pilota della Germanwings, nella settimana precedente il suo piano suicida, avrebbe fatto delle ricerche su internet per informarsi sui metodi per suicidarsi e sulle porte del cockpit, cioè la cabina di pilotaggio, e le loro misure di sicurezza. I dati sono stati ricavati da un tablet ritrovato dagli investigatori in una delle case dove il pilota viveva in Germania. Altri particolari emergono da indiscrezioni di stampa. Lubitz assumeva farmaci antidepressivi e ansiolitici come il Lorazepam, un farmaco prescritto che ha problemi di sonno, usato anche contro attacchi di panico. Secondo altri dettagli d'indagine, l'uomo si era rivolto ad almeno 5 medici per consultarsi sulle proprie condizioni di salute e aveva un problema agli occhi provocato da un incidente stradale accaduto lo scorso anno. Proprio per questo motivo, negli ultimi mesi, vedeva spesso buio attorno a lui. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi siamo sulla politica italiana con il rimpasto di governo. Vi dicevo, dopo le dimissioni di Maurizio Lupi, l'attuale sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Graziano Del Rio, vicinissimo a Renzi, ha giurato circa un'oretta fa al Quirinale come successore per l'appunto di Lupi alle infrastrutture e ai trasporti. Parleremo di questo rimpasto. Intanto l'altro tema caldo sul quale anche vi chiederei di esprimere la vostra opinione, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia secondo attraverso i messaggi SMS al 349-238-6666, è quello del tema caldo sulle alleanze. Però abbiamo Vincenzo Miglietta in diretta da Roma. Vincenzo, eccoci qua. Sì. Buonasera ai nostri ascoltatori. Ciao Vincenzo, tu hai seguito allora il giuramento del rimpasto, questo mini rimpasto per il momento, diciamo di poche persone, in più ci sono ancora dei punti, delle collocazioni da decidere, no Vincenzo? Assolutamente, è così, lo ricordavi giustamente, alle 20 il giuramento di Del Rio al Quirinale, di fronte al Presidente della Repubblica Mattarella, con lui il Presidente del Consiglio Renzi, quindi Del Rio è il nuovo Ministro delle Infrastrutture, succede a Lupi, lo ricordiamo, dimissionario. Quali le caselle ancora aperte? Resta quello degli affari regionali, che non si è chiusa, quindi questa casella oggi probabilmente si chiuderà dopo Pasqua o forse ancora più in là, perché comunque è un ministero, Roberta, che dovrebbe andare al nuovo centrodestra, ma ci sono ancora pressioni su nomi vari. Si era parlato di Quagliariello, ma lui ha rifiutato, in pole position vi sarebbe sempre del nuovo centrodestra Dorina Bianchi, ma anche qui i nomi sono non sicuri. E quindi dovremo aspettare almeno questa festività per vedere il Ministro degli Affari Regionali con un nuovo responsabile. Quindi si prendono una pausa di riflessione con le vacanze. Grazie Vincenzo Miglietta. Grazie. Ciao Vincenzo. Dicevo, l'altro tema caldo sono le alleanze in vista delle regionali, l'argomento che vi lancio questa sera. Ieri la parziale intesa Forza Italia-Lega, poi le polemiche. I leghisti liguri contestano l'accordo con Forza Italia sulle regionali. Sui social network in queste ore sono decine i messaggi di simpatizzanti e militanti del Carroccio contrari alla decisione di ritirare la candidatura di Edoardo Rixi per sostenere quella del consigliere politico di Berlusconi, Giovanni Toti, una scelta difesa però dal segretario federale Salvini, ospite di Effetto Giorno. Italia ha tanto insistito per avere un suo candidato, come Lega da soli non avremmo mai sconfitto la sinistra che è qua da decenni, in alleanza abbiamo qualche possibilità in più. L'accordo prevede anche che in Veneto il candidato comune sarà il governatore uscente, il leghista Luca Zaia, mentre in Umbria i due partiti sosterranno l'attuale sindaco di Assisi, Claudio Ricci. Salvini esclude di estendere l'intesa con Forza Italia anche alle politiche, cosa auspicata invece dall'azzurro Brunetta. Forza Italia, forza centrale nel centrodestra, Lega forza assolutamente centrale e fondamentale per vincere, quindi i nostri destini non possono che essere uniti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E così non possono che essere uniti i loro destini. 349-238-6666 per le vostre opinioni attraverso i messaggi, oppure come sempre sulla pagina Facebook di Effetto Note. Invece sul fronte della giustizia, cosa succede? Che entra in vigore da oggi la legge sulla non punibilità dei reati lievi. La legge riguarda i reati punibili con un massimo di 5 anni di reclusione, che potranno essere archiviati in fase preliminare dal giudice, evitando i 3 gradi di giudizio. Non c'è depenalizzazione, ha detto la presidente della Commissione Giustizia Donatella Ferranti, ma l'iter di giudizio sarà più breve e porterà a una sanzione amministrativa. Quindi deve essere tenue l'offesa, occasionale la condotta. Non deve trattarsi di appunto reati abituali, non ci deve essere mai un comportamento esercitato con crudeltà. Potranno essere giudicati tenui alcuni casi di furto semplice, frode informatica, appropriazione indebita, diffamazione, truffa e altri reati. Sono esclusi invece quelli commessi contro persone indifese o animali, reati che causino lesioni gravi, furto in abitazione e maltrattamenti. La legge è buona, secondo il consigliere dell'Ordine degli Avvocati Pietro Traini, evita che chi per una volta ruba una mela finisca a processo. C'è solo un punto debole. Il rischio grosso è che si dà una grandissima soglia interpretativa al magistrato, perché è il magistrato che deve decidere qual è la tenuità del fatto, quindi non ci sono delle regole vere e proprie. E quindi caso per caso è evidente che si potrebbe fare non solo della giustizia ma anche dell'ingiustizia. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è sempre il risvolto della medaglia, diciamo così. Adesso però occupiamoci di economia con quella di oggi, che è stata una giornata con dati non tutti positivi. La notizia buona, considerate le altre, è che l'anno passato il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,2%. Considerando l'andamento dell'inflazione, il potere d'acquisto è rimasto invariato. Ed è la prima volta dal 2007, fa notare la Coldiretti, che la capacità di comprare non scende. Da qui la risalita della spesa per consumi finali da parte delle famiglie, mezzo punto percentuale in più, addirittura superiore al dato sul reddito disponibile. Sul resto, però, non c'è da sorridere. Il rapporto deficit-PIL cresciuto nel 2014 dello 0,1, arrivando a toccare così la fatidica soglia del 3%. Solo negli ultimi mesi dell'anno l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al prodotto interno lordo è cresciuto, e non di poco, un punto percentuale in più rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Anche la pressione fiscale non ha scherzato, e anche in questo caso l'impennata si è verificata in coda d'anno: 50,3% negli ultimi mesi, 43,5% nell'intero 2014. Ancora in calo poi la quota di profitto delle società non finanziarie, pari al 40,6%, un nuovo minimo dall'inizio delle serie storiche. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E proprio a proposito di dati, parliamo di quelli sull'occupazione. In questi giorni con Luca Ricolfi, docente di analisi dei dati all'Università di Torino, nonché editorialista del Sole 24 Ore, qui a Effetto Notte facevamo un po' i conti in tasca al Ministero del Lavoro, perché erano stati dati solo pochi giorni prima dei dati entusiasmanti su nuovi posti di lavoro, poi pochi giorni dopo invece l'Istat ha detto che in realtà no, la disoccupazione sale, soprattutto quella femminile, e il Sole 24 Ore, anche soprattutto attraverso Luca Ricolfi, ha continuato a insistere affinché il Ministero desse questi dati in modo trasparente, inconfutabili. Chicco Padula, mi pare che ci sia stato, vice direttore del Sole 24 Ore, una risposta, no, dal Ministero, grazie alle vostre sollecitazioni. Sì, esatto, è proprio così. Oggi pomeriggio, anzi in serata, il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito un comunicato con il quale informa che, diciamo, proprio in seguito alle sollecitazioni arrivate, diciamo, dalla stampa, cioè dal Sole 24 Ore, per rendere più frequente, più completa, diciamo, la dote, la conoscenza dei dati relativi ai rapporti di lavoro, che allora avrebbe attiverà un sistema che, esattamente come chiedeva a Luca Ricolfi, renderà questi dati conoscibili ogni mese e non ogni 3 mesi come, diciamo, avviene ora, quindi allineandosi anche alla rilevazione mensile dell'Istat sull'occupazione. È, diciamo, una cosa importante, perché contribuirà, insomma, a portare un po' di chiarezza in un ambito, cioè quello dei dati sull'andamento dell'occupazione, no? Che è importante non solo perché, insomma, è chiaramente in qualche modo influenza anche il consenso verso il governo, no? Ma anche perché è davvero un dato che fornisce informazioni importanti e preziose su come sta andando il paese, su come sta andando l'economia, su quali sono le prospettive di ripresa. Sappiamo che l'occupazione, insomma, è uno dei temi, come dire, più sensibili e delicati, e che sul quale, insomma, il nostro paese deve recuperare ancora tanto terreno. Quindi è senz'altro questa positiva, questa notizia. Dal mese di aprile, dalla fine di aprile, saranno quindi disponibili a chi li chiederà, con una procedura che è indicata sul sito del Ministero del Lavoro, le serie mensili con il dettaglio analitico di tutte le assunzioni e le cessazioni dei rapporti di lavoro nel mese precedente. Così finalmente un po' di chiarezza. Grazie, Chico Padula. Grazie a te. Ciao. Ciao, buon lavoro. Ciao, ciao. Per il cinema un lutto: è morto all'età di 106 anni, almeno ha vissuto, il regista portoghese Manuel de Oliveira, nato l'11 dicembre del 1908 a Oporto, in Portogallo. La sua carriera è iniziata nel 1931, all'epoca del cinema muto, pensate, con Douro Faina Fluviale, un documentario sul primo maggio, ed entra quindi Oliveira nel Guinness dei primati come decano dei registi mondiali. In chiusura, lo sport: con la vela, Luna Rossa si ritira dalla 35esima edizione di Coppa America, lo ha annunciato lo stesso team attraverso il proprio sito internet, perché la decisione segue l'approvazione a maggioranza delle nuove regole di classe delle imbarcazioni, che cambiano ogni poco a voto di maggioranza, e quindi il team di Luna Rossa, dopo aver valutato le gravi implicazioni di questa iniziativa, conferma il ritiro. Io confermo che ci sono sempre per voi i numeri 349-238-6666 per i vostri messaggi, la pagina Facebook per Effetto Notte. Di Effetto Notte è qualcuno che già anticipa uno degli argomenti di questa sera che vi avevo annunciato all'inizio, l'autismo, dice Mario da Genova. A Genova la fontana De Ferrari colorata di blu per ricordare l'autismo. E poi altri messaggi sulla politica. Luisa dice: sono convinta che l'ex cavaliere sia uscito dal patto del Nazareno per avvicinarsi a Salvini in vista delle amministrative. Ecco, vi chiedevo cosa pensate di questo nuovo matrimonio, insomma, tra Lega e Forza Italia. Tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, siccome abbiamo veramente tante cose da raccontarvi, tanti ospiti, tante storie, vi riassumo brevemente, se avete acceso in questo momento, ma siate puntuali alle 21 con Effetto Notte tutte le sere, vi riassumo le notizie principali di questa giornata. Questo accordo che è stato trovato a Losanna in Svizzera sul nucleare iraniano, uno storico accordo, viene definito con l'Iran, i dettagli, l'intesa praticamente si chiuderà a giugno, poi ne parleremo. E poi l'integrismo islamico che di nuovo sparge terrore, questa volta in Kenya, in un college universitario, si temono 150 morti, alcuni decapitati, in ostaggio 500 studenti cristiani. E poi Del Rio, per il rimpasto della politica italiana, Del Rio che giura da ministro al Quirinale, ha giurato circa un'ora fa come ministro delle infrastrutture, parte rimpasto. Non esistono, dice Del Rio, infrastrutture grandi o piccole, ma soltanto utili. Poi nuovi dettagli. Intanto, per quanto riguarda la tragedia del Germanwings, dell'aereo precipitato, è stata ritrovata la seconda scatola nera che sarà decisiva sugli ultimi 9 minuti di quel terribile viaggio. Lubitz, si sa adesso, cercò online come suicidarsi, e notizie su come funziona la porta della cabina. Papa Francesco a Rebibbia, in carcere di Rebibbia, lava e bacia i piedi a 12 detenuti, 6 detenute e 6 detenuti. E a San Pietro parla della sua stanchezza e di quella dei preti. E poi per il cinema, addio a De Oliveira, il giovane vecchio, a 106 anni il maestro del cinema è morto. E adesso soffermiamoci sulla ennesima terribile strage che hanno perpetrata da integralisti islamici, quindi parliamo dell'avanzata del terrorismo islamico anche in Africa. Secondo le ultimissime notizie, giusto le più recenti, insomma, ieri l'ISIS, l'autoproclamatosi Stato Islamico, era arrivato a Damasco, in Siria, dentro un campo di profughi palestinese. La notizia di oggi è che gli integralisti islamici hanno compiuto una strage in Kenya. Un comando armato ha attaccato un college universitario a Garissa, che è una città vicino al confine con la Somalia. La rivendicazione è di Al-Shabaab, perché è molto ampia la galassia dell'integralismo islamico, quindi c'è Boko Haram in Nigeria, Al-Shabaab, l'ISIS, 147, forse 150 i morti per ora accertati. Poi sono stati ritrovati 500 studenti su 815 di quelli tenuti in ostaggio, uccisi i 4 assalitori che hanno compiuto questa strage. Ne parliamo con Paolo Maggiolini, che saluto. Buonasera Maggiolini. Buonasera. che è ricercatore ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, spesso nostri ospiti ricercatori. Maggiolini, non è soltanto, diciamo, un'impressione mediatica questa di questa avanzata, è anche molto in Africa, no? Già si sente spessissimo parlare di Nigeria, abbiamo visto l'ISIS in Iraq, in Siria, adesso si arriva in Kenya. E con questa rivendicazione Al-Shabaab, che sarebbe, significa giovani in arabo, no? Se non sbaglio, che sono venuti fuori dal caos nel Somalia già negli anni 90. Esattamente, questo gruppo appunto Al-Shabaab in realtà è già attivo in Kenya da parecchio tempo. Meno si conta che negli ultimi 3 anni abbia già compiuto circa 17 attentati di varia portata, forse più conosciuto, più famoso quello dell'anno scorso, no, del 2013 a Nairobi. E in realtà rappresenta un fronte all'interno di una realtà appunto più ampia, che ormai ha quasi i profili veramente della galassia, in cui differenti gruppi che si affiliati poi anche o che si riferiscono a gruppi più grandi come può essere appunto IS o Al-Qaeda stessa, si contendono un po' la leadership, muovendosi sia in una dimensione, diciamo, territoriale, molto più locale, sia regionale che anche globale. Ma in che situazione, in che condizioni è a questo punto l'Africa, Maggiolini? Nel senso che da animista che era, e anche con presenza da diversi decenni cristiana, adesso si sta molto islamizzando, adesso al di là che è diverso ovviamente l'Islam dall'integralismo islamico. Sì, beh, diciamo che da un certo punto di vista l'Africa è espressione di un Islam autoctono, chiaramente profondamente differente da quello che viene cercato di diffondere con le armi dal Shabaab. Al-Shabaab in sé un po' rappresenta la storia che abbiamo visto poi in vari contesti, quindi di un movimento che prende la bandiera un po' della versione più radicale e unisce la battaglia locale, che si alimenta poi di tutte le contraddizioni, tutte le difficoltà del territorio, a quella appunto poi di una propaganda più ampia. Ma infatti, Maggiolini, lei diceva alimentato dal caos, dalla situazione territoriale, ma c'è qualcuno che li contrasta? Che contrasta questa avanzata? Diciamo che come appunto diceva prima, Al-Shabaab si localizza, nasce all'interno della dinamica somala, il Kenya diventa in qualche modo obiettivo proprio nel momento in cui entra nel contesto somalo per riportare ordine. E in questo momento quello che si vede dopo un periodo di difficoltà di Al-Shabaab stesso all'interno della Somalia è quello di cercare appunto di uscire, e con appunto le armi che abbiamo già visto utilizzate in altri contesti, cioè l'idea appunto di incendiare lo scontro settario, di far leva sulle difficoltà del rapporto anche di alcuni territori che soffrono in realtà di problemi economici e della disattenzione anche dello Stato centrale, di radicarsi, di svilupparsi. Certo. Non c'è solo il Kenya, c'è anche l'Uganda, e quindi appunto in questo contesto prettamente africano poi ritroviamo alcuni degli elementi che troviamo in altre realtà, in altri contesti. In questo momento effettivamente sembrerebbe da una parte Al-Shabaab che si riferisce al Qaeda, dall'altra parte appunto in Nigeria invece Boko Haram, che ha in qualche modo guardato più all'esperienza iracheno-siriana di IS o di Daesh. Grazie di questo quadro, Paolo Maggiolini. Grazie, buonasera. Grazie. Ora invece passiamo a parlare di una notizia che finalmente sembra una buona notizia a livello internazionale, riguarda i lunghi e difficoltosi negoziati sul nucleare iraniano. Teheran e paesi del gruppo 5+1, li chiamano sempre il gruppo 5+1, ma sono Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Germania, Cina e Russia, che hanno portato avanti da tanto tempo questi negoziati, e sembra che siano giunti a un'intesa. Losanna, oggi in Svizzera, hanno raggiunto un accordo sui punti chiave del negoziato sul programma nucleare della Repubblica Islamica. L'Iran chiede però con questo accordo di revocare tutte le sanzioni. Si andrà avanti sino a giugno, quindi diciamo che c'è stato un primo accordo, in realtà poi i dettagli arriveranno allora. Il segretario di Stato, quindi il ministro degli esteri Kerry americano, ha detto un grande giorno, ora abbiamo i parametri per un accordo finale a giugno. Sentiamo anche che cosa ha detto la nostra Mogherini, che è praticamente la numero uno della diplomazia europea. Ci sono diversi tipi di sanzioni in questo momento sull'Iran, sanzioni europee, sanzioni americane, sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Ognuna di queste tre parti di misure avranno bisogno di basi giuridiche differenti, ma abbiamo trovato un accordo che garantisce che vengano tolte le sanzioni sull'Iran, che quindi l'Iran possa aprirsi a rapporti commerciali, economici, ma anche più in generale di normalizzazione delle relazioni, aprirsi al mondo con tutte le conseguenze anche sulla società iraniana, sul paese, sulla regione, e al tempo stesso la garanzia per la regione, per l'Europa, per il mondo, di un Iran che non potrà sviluppare l'arma nucleare, e quindi un accordo importantissimo anche per la sicurezza e per la non proliferazione. Posso dire che oggi abbiamo fatto un passo veramente storico verso un mondo migliore. Sembrano parole, ma oggi ci vogliono. Oggi ci vogliono. Ugo Tramballi, inviato speciale del Sole 24 Ore. È davvero una buona notizia, quindi non è che si tornerà indietro, a parte che è difficile prevedere poi, però sembra dalle dichiarazioni che si sia sventata la creazione di una bomba atomica da parte dell'Iran. Ciao Ugo. Buonasera. Ciao. Direi che dai giorni in cui i ragazzi di Piazza Tahrir illusoriamente vinsero il confronto con i militari, è la prima buona notizia che viene dal Medio Oriente in quasi cinque anni, in quattro anni. Credo che per quello che si capisce, perché appunto, come hai detto anche tu, l'accordo poi tecnico deve essere perfezionato. Quello che hanno letto fondamentalmente sono due dichiarazioni, anzi una stessa dichiarazione, una in inglese e l'altra in farsi. Sembra però comunque che sì, sia stato raggiunto l'obiettivo fondamentale. L'obiettivo fondamentale è quello di impedire che l'Iran possa sviluppare una bomba atomica. Passo numero due è che appunto di conseguenza l'Iran non possa sviluppare il suo uranio arricchito. E questo è stato sostanzialmente raggiunto, i tempi sono stati concordati e i tempi sono anche molto lunghi, e anche se l'Iran decidesse improvvisamente fra qualche tempo di violare questi accordi, ci sarebbe comunque quell'anno di tempo prima che l'Iran possa cominciare ad avere appunto una bomba. Ma soprattutto questo dimostra che l'Iran, almeno l'Iran che si è presentato a Locarno, perché l'Iran, anche come tutti gli tanti altri paesi, come del resto anche gli Stati Uniti, c'è un presidente americano che la pensa in un modo, c'è un congresso repubblicano che la pensa in un altro, anche in Iran ci sono varie opinioni. Diciamo che l'Iran buono, l'Iran positivo, l'Iran pronto a trattare, che si è presentato in Svizzera, ha chiaramente chiarito che l'Iran non vuole fare la bomba. Tutto quello che serviva, cominciando anche da tutta quella parte tecnica che serve appunto per fare le centrifughe, soprattutto che servono per fare appunto l'uranio arricchito, e anche una volta che arricchisci l'uranio deve essere arricchito a un determinato livello, una percentuale molto alta per avere appunto il materiale necessario per una bomba, tutto questo è stato regolato. Io credo, guardando quel poco che si sa dei risultati, è un risultato, mi sembra, al di sopra delle aspettative, in senso positivo. E naturalmente vedremo adesso le reazioni soprattutto dei principali oppositori, che sono numero uno Netanyahu, come dicevo, il ministro israeliano, il congresso americano, poi vengono i duri dell'Iran, e poi viene Netanyahu. Apparentemente Netanyahu non dovrebbe essere così autorevole da riuscire a modificare le posizioni degli Stati Uniti, invece lo è. Già, ti chiedo solo una cosa in pochi secondi che abbiamo ancora, Ugo Tramballi. In cambio cosa ha avuto l'Iran? Soltanto la revoca delle sanzioni o qualcos'altro? No, io credo la revoca delle sanzioni, cioè la revoca graduale delle sanzioni, se tutto questo verrà verificato naturalmente. Ma soprattutto il ritorno per quell'Iran, quella parte buona dell'Iran, il ritorno, come diceva anche la Mogherini, ad essere un protagonista, non più un paria della scena internazionale. Tutto questo naturalmente al netto di quello che sta invece succedendo in Medio Oriente, dove vediamo nello Yemen esiste quell'altra parte di Iran che vuole invece mestare e vuole comunque affrontare la questione medio orientale con i muscoli e cercando un espansionismo iraniano che è estremamente pericoloso. Già, le contraddizioni. Grazie intanto Ugo Tramballi. Grazie a voi. Ciao Ugo. Oh, e adesso vedo i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte anche attraverso il 349-238-6666. Per esempio Corrado che dice a proposito del nuovo sodalizio tra Berlusconi e Salvini: chi si somiglia si piglia, chi molto negativo come Roberto, veramente attacca duramente questo connubio. E poi gli altri li leggerò tra poco, prendiamoci un momento di creazione che ci sono poi altri temi. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano, sempre con voi, stavo guardando ancora i vostri messaggi sul nuovo sodalizio, la ritrovata intesa insomma tra Forza Italia e tra Lega, quindi tra Berlusconi e Salvini. Elena dice: la commedia italiana, ci sarebbe voluto il Sordi dei suoi tempi migliori, un grande Totò, ne avremmo sentite delle belle. Alessandro scrive una cosa che non si può ripetere, vabbè, quindi diciamo non la vede di buon occhio. Marco dice: lasciamo perdere. Daniele: un tentativo di opporsi è questo all'accozzaglia della sinistra da parte di chi di sinistra non è, perché non vi meravigliate, dice Daniele, dell'unione dei bacchettoni alla Rosi Bindi con Vendola o Pisapia. E poi Carlo dice che gli sembra orrore puro. Per Lorenzo questo sodalizio è il vecchio che avanza, e così molti altri messaggi. Potete continuare a scriverli sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure gli sms al 349-238-6666 sulla vostra opinione rispetto alla ritrovata intesa tra Berlusconi e Salvini. Intanto vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento, siete saliti in macchina, state stirando, le notizie principali. In Iran è raggiunta un'intesa dei negoziati a Losanna in Svizzera sul programma nucleare iraniano. Si parla di un accordo storico: terrorismo islamico, strage jihadista al college universitario in Kenya, 150 i morti, salvati 500 studenti cristiani intanto degli 815 presi in ostaggio. E poi il rimpasto di governo: Del Rio giura il Quirinale come ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'aereo precipitato, è stata trovata la seconda scatola nera che servirà a sapere qualcosa di più sugli ultimissimi minuti di quel terribile viaggio. E si apprende che Lubitz cercò sul web notizie sui suicidi e come usare la porta della cabina. Medicina: oggi è la giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo, poi ne parleremo. Cinema: è morto all'età di 106 anni il decano dei registi, il regista portoghese Manuel de Oliveira. E per lo sport, per la vela, Patrizio Bertelli dice basta, luna rossa di Prada, quindi fuori dalla Coppa America. Dicevamo dunque di Del Rio che ha giurato, quindi è iniziato questo rimpasto da parte di Renzi dopo le dimissioni un po' spinte di Maurizio Lupi, del nuovo centrodestra, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo lo scandalo che lo ha per il momento soltanto sfiorato, che riguarda il super manager del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture in calza, che lì è almeno da un trentennio. Ne parliamo con David Allegranti. Buonasera David. Buonasera a voi che ci ascolti. Che è giornalista politico, collabora con diverse testate, tra cui il Corriere Fiorentino, il Foglio, la trasmissione Gazebo, autore di The Boy per Marsilio, che è su Renzi, perché David è un conoscitore di politica nazionale, ma anche molto fiorentina. Tu oggi sul Foglio hai fatto un paginone, sì, sul potere di Firenze, dove praticamente dici che Palazzo Chigi sta diventando sempre di più Palazzo Vecchio, cioè la sede prestigiosa del comune di Firenze. Esatto, oppure Palazzo Vecchio è stato traslocato, trasferito, trasportato a Palazzo Chigi, nel senso che quello che io chiamo il Giglio Magico, che è il degno erede di tutto, i migliori clan della Repubblica Italiana, il Tortellino Magico, la Corte di Arcore, ogni leader politico ha avuto un gruppo di fedelissimi che si è portato appresso, adesso tocca al Giglio Magico, dove fanno parte i soliti Luca Lotti, Maria Elena Boschi, Francesco Bonifazi e tutta una serie di altre persone che in questo pezzo scrivo, mettendo dalle segreterie alle segrete stanze tutti i fiorentini che sono arrivati a Roma e sono calati dall'alto come i barbari baricchiani, nel senso di baricco. E adesso c'è stato un rimpasto, nel senso che Del Rio, che non è fiorentino ma emiliano, ma fa parte del Giglio Magico acquisito, un'acquisizione, la sua, è diventato ministro delle infrastrutture. In un colpo solo Renzi ha colto l'occasione migliore, perché si è liberato, diciamo così, non potendolo fare come cambiava assessori, come Camisce, perché i ministri non possono essere sostituiti così facilmente, ha colto l'opportunità di un'inchiesta che lo sfiora, come dicevi te, però c'è stata tutta la questione della responsabilità politica, che vale più del giudizio per ora provvisorio della magistratura sulle inchieste. Renzi ci ha spiegato che un conto della responsabilità politica e un conto è appunto l'intervento della magistratura, differenziando il caso di Lufi da quello per esempio di De Luca, che è candidato governatore, candidato governatore in campagna, condannato in primo grado, però se sei condannato in primo grado c'è sempre altri gradi di giudizio. Invece la responsabilità politica è qualcosa di più feroce, perché se perdi quella perdi il ministero. E adesso ci sarà, oltre a questo, da trovare un successore di Del Rio, perché Del Rio era sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. E in questi giorni si sono, diciamo, sprecati i nomi. Si è parlato di Antonella Manzione, che è capo del legislativo di Palazzo Chigi, ex comandante dei Vigili di Firenze, quindi un'altra del Giglio Magico, oppure di Valeria Fedeli, vicepresidente del Senato. Lei è una scigellina convertita sulla via di Rignano, nel senso che non era renziana, ma l'è diventata un po' come tu. Davide Allegranti, io vedo che ci sono moltissimi nomi in questo tuo paginone sul foglio. Non resta adesso che aspettare le vacanze di Pasqua, pausa di riflessione che ha deciso evidentemente di prendersi Renzi, e poi magari ci aggiorniamo vediamo se le tue previsioni erano fondate. Va bene? Sì, va bene. Grazie Davide Allegranti. Grazie a voi. Ciao. Ciao, buona continuazione. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E le notizie principali ve ne do le più importanti, le prime tre, che sono appunto questo accordo storico sul nucleare iraniano che è stato raggiunto oggi a Losanna in Svizzera, poi i dettagli ci saranno a fine giugno, una nuova strage di integralisti islamici in Kenya, questa volta è avvenuta, 150 morti tra studenti di un campus, altri centinaia sono in ostaggio, e poi ne abbiamo parlato poco fa, ha giurato oggi Del Rio come nuovo ministro delle infrastrutture. Europa 24 notte. Parliamo adesso di Europa, Europa e Africa insieme per gestire rifiuti tecnologici. L'Africa è diventata la pattumiera del mondo, li finisce anche gran parte del materiale elettrico e elettronico che da noi non serve più. In generale sono 2 milioni le tonnellate di rifiuti tecnologici generati in Africa e che soltanto in piccola percentuale vengono smaltiti come si deve. Da questa consapevolezza, nell'ambito di Horizon 2020 è nato il progetto di cooperazione tra Europa e Africa, al quale partecipano 24 partner internazionali appartenenti al mondo della ricerca accademica, delle istituzioni locali, dell'industria. Il valore è di oltre 1,6 milioni di euro. Il progetto è affidato a Remedia, che è uno dei principali sistemi collettivi italiani no profit per la gestione ecosostenibile. Sentiamo il direttore generale Danilo Bonato al microfono di Alessandra Schepisi. È un progetto di cooperazione internazionale che si inserisce nel grande tema dello sviluppo sostenibile per l'Africa. L'Europa sta investendo molto sull'Africa. In particolare qui parliamo di un programma europeo per le materie prime, per la gestione dei rifiuti, e sappiamo che l'Africa è un continente in fortissima ascesa, ma che va aiutato ad evitare gli errori che noi abbiamo commesso nel secolo scorso nei nostri processi di industrializzazione nei paesi occidentali. Quindi ecco, il progetto ha come grande obiettivo quello di affrontare l'impatto dei rifiuti nelle grandi aree metropolitane africane. Perché ecco, vorrei far presente agli ascoltatori che il cambiamento degli stili di vita, delle abitudini di consumo che stiamo verificando nelle classi medie in Africa sta incrementando in modo esponenziale il flusso di rifiuti che si generano in quel continente, creando poi seri problemi di tipo ambientale ma anche di tutela della salute. In che modo poi come si svilupperà questo progetto concretamente? Sì, noi quello che ci proponiamo di fare con IWIT, appunto il nostro lavoro è di coordinamento complessivo di una rete di 25 partner internazionali che sono dell'industria, del mondo della ricerca, le istituzioni pubbliche, quindi coinvolgendo tutti i soggetti che poi hanno un ruolo in questi in questo tema dei rifiuti elettronici, noi ci proponiamo di assistere le città africane, quattro grandi aree metropolitane che sono Johannesburg in Sudafrica, Kisi che è una città del Kenya, una città dello Zambia che è Choma e poi Abidjan nella Costa d'Avorio, e vogliamo assistere queste aree metropolitane a progettare e realizzare i propri sistemi di raccolta e di riciclo dei cosiddetti RAE. I RAE sono i rifiuti di apparecchiature elettroniche, quindi pensiamo ai frigoriferi, ai computer, ai cellulari, agli elettrodomestici. Quindi immaginiamo questo flusso di rifiuti che oggi finisce nelle discariche, e non è solo un flusso che viene prodotto localmente, ma ci sono poi le esportazioni illegali dall'Europa. Sappiamo bene che l'Africa è un po' la pattumiera dell'Occidente dove finiscono questi prodotti che noi buttiamo via. L'idea del progetto è quella di aiutare queste aree metropolitane, come diciamo iniziativa pilota, a organizzarsi per avviare una prima raccolta separata di questi rifiuti e poi portare questi rifiuti a degli impianti di trattamento che consentano da un lato di risolvere il problema ambientale, ma dall'altro anche di generare delle materie prime che poi questi paesi possono rivendere e riutilizzare su cicli industriali locali per far girare un po' l'economia e creare dei posti di lavoro. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E adesso parliamo di un argomento particolarmente delicato che riguarda molte famiglie in Italia e nel mondo. Infatti oggi è la giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo. Se ne sente più parlare, prima era una cosa che si nascondeva, forse si conosceva anche molto poco. Adesso invece se ne occupa anche la politica, abbastanza ultimamente, ma insomma con un certo interesse. In Italia si stima che siano circa 100.000 i bambini e gli adolescenti affetti a diversi gradi d'autismo, anche se purtroppo, come succede per altri aspetti sanitari in Italia, ci sono diverse regioni in cui i servizi, le strutture terapeutiche in grado di offrire delle cure personalizzate, insomma, sono un po' inadeguate. Sono in buona parte ancora misteriose le cause di questo disturbo, anche se secondo una ricerca resa nota ieri sarebbe stato scoperto che la causa in un caso su tre, quindi per il 30%, sarebbe genetica. Questo è il risultato di una ricerca europea guidata dal Campus Biomedico di Roma, che ha utilizzato una tecnica di analisi genetica innovativa su 200 famiglie, e secondo questi ricercatori in tempi forse più rapidi del previsto sarà possibile mettere a punto delle cure personalizzate. Ma intanto cominciamo a capire che cos'è l'autismo. Ne parliamo col dottor Franco Nardocci, che saluto. Buonasera, Nardocci. Buonasera. Che è coordinatore della sezione scientifica di epidemiologia della SIMPIA, che è la Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Professore, ci spiega prima di tutto che cos'è l'autismo, come si può definire? Dunque, l'autismo è una grave disabilità molto invalidante che colpisce è congenita, quindi fin dalla prima infanzia, che colpisce la possibilità di comunicare e di socializzare dei bambini. Uso i termini più chiari per la realtà, certo, nostra, nel senso che il comunicare è qualche cosa ben prima del linguaggio, nel senso che sono compromessi tutti i sistemi di comunicazione, quindi si parte dal significato del sorriso, del pianto, della mimica, della postura, quindi fondamentalmente ben prima del linguaggio è compromessa la possibilità dei bimbi con autismo di riuscire a comprendere e a evidenziare i loro bisogni, le loro aspettative, anche fondamentalmente le loro esigenze. Questa questione è molto profonda nel creare un'area di disabilità, perché anche evidentemente le mamme, il papà e i fratelli non sono in grado di scambiarsi comunicazioni, e scambiare comunicazioni in questo senso vuol dire scambiarsi una dimensione anche empatica, e cioè la relazione, e quindi è un grave disturbo della relazione, ma legata a dei meccanismi biologici che la impediscono, non ad altro, cioè non a condizioni, tanto per non girare troppo alla larga, delle incapacità o delle non adeguatezze dei genitori, è proprio una dimensione innata che mette in grande difficoltà lo sviluppo del bambino. Dottor Nardocci, però le cause sono in parte ancora misteriose. Adesso, da questa ricerca di ieri europea, si dice che nel 30% sarebbero genetiche. comunque devo anche dire. Poi c'è anche la storia dei vaccini, sa che molti pensano che siano i vaccini che si fanno ancora nella primissima infanzia che possano causare. Allora, che ci sia una componente genetica molto forte è risaputo da tempo. Il problema è che ci sono molti tipi di autismo, tanto che adesso si parla di autismi. Certo che non sono i meccanismi genetici che erano e sono conosciuti. Sicuramente la causa specifica dell'autismo o degli autismi non è ancora conosciuta. Tra l'altro ci sono degli autismi che sorgono in bambini che hanno delle potenze, per esempio nella sindrome di Down o in altra patologia cerebrale. Quindi effettivamente la questione è l'altra è se c'è una cosa a cui i genitori sono molto sensibili, la questione dei vaccini. In realtà non c'è alcuna dimostrazione scientifica che questa teoria, che questa interpretazione corrisponda alla realtà. Tra l'altro tutto è partito da un articolo che è stato pubblicato su una rivista importante inglese che poi è stata dichiarata falsa. Il medico che l'ha fatta uscire è stato buttato fuori dall'ordine dei medici in Inghilterra. Anche perché poi l'autismo è in aumento anche nelle zone dove non fanno più soprattutto la trivalente. Tornardoci, proprio per chiudere, terapie sono migliorate, migliorare la condizione? La guarigione non esiste e questo crea in medicina, se non c'è la guarigione ci sono migliaia di cure, ma non solo in medicina. Fondamentalmente con l'intervento psicoeducativo, l'intervento cognitivo comportamentale, con il supporto alle famiglie, la protezione delle famiglie, con questi processi di integrazione e di adattamento del mondo scolastico ed educativo, i miglioramenti ci possono essere, come nel senso che ormai si dice che le competenze che un bambino o una bambina con questa disabilità può acquisire sono sicuramente legate a interventi precoci e intensivi legate alle teorie, ai modelli cognitivo-comportamentali e psicoeducative che devono essere applicati insieme alla famiglia. In questo senso la famiglia diventa un asse portante dell'intervento tra virgolette terapeutico, come in tante cose. Dottor Nardocci, io la ringrazio molto, e comunque già un fatto positivo che se ne parli molto di più, anche perché ci si sente meno sole, le famiglie sono meno sole, ma soprattutto la scienza, la medicina, ma anche le istituzioni sono più attente, insomma c'è più possibilità di arrivare prima o poi a capire le cause, possibilmente anche a migliorare terapie. Grazie allora e buona continuazione, buon lavoro dottor Nardocci. Grazie a voi e grazie del vostro impegno, arrivederci. E prima di salutarci do ancora un'occhiata ai vostri messaggi. Io sono ligure, sono con la Lega, ma se Salvini farà comunella col PDL, che però è diventato Forza Italia da un po', io e come molti altri non voteremo più. E poi un altro messaggio: rimpasto o non rimpasto, questo governo secondo me non riesce a rispondere ai bisogni della gente, manca di concretezza, dice un altro ascoltatore. A poco servono i giri di valzer delle poltrone se non si tiene conto della vita reale di chi non arriva a fine mese. Siamo arrivati invece quasi alla fine della puntata, ci risentiamo giusto per un attimo tra poco.